Benissimo. Allora, oggi è il 9 aprile 2024, ci troviamo al Centro Trevi, nella Sala 1, dove in compagnia di Alessandro Romano e di Paola Totis parleremo di un regista, di un cineasta, scrittore, come dice il sottotitolo di questo libro, dedicato ad Andrei Zulavsky. Ora, non anticipo niente perché mi ero ripromessa che lasciavo subito la parola ai nostri due ospiti che vengono non da Bolzano, ma da una regione, anzi da due regioni vicine con cui ci siamo intrattenuti prima e che ci racconteranno questo regista polacco particolare che esprime anche forse una tradizione nella cinematografia polacca, tutta da scoprire, almeno per noi, spesso e volentieri, anche se in qualche occasione, se penso a Kieslowski, no, per citare il più famoso forse, ecco, e poi anche un docufilm che abbiamo avuto la possibilità di vedere proprio l'anno scorso in questo periodo qui al Centro Trevi, che ricostruiva lo straordinario incontro fatto da Oriana Fallaci con Lech Walesa. E devo dire che il regista, adesso mi sfugge il nome, ma era strepitoso nella ricostruzione dell'ambientazione storica e anche architettonica, ma soprattutto delle dinamiche personali fra questi due straordinari personaggi che si sono incontrati in un momento delicatissimo e che hanno saputo rompere questa tensione e incominciare a ragionare e ad entrare in una sintonia veramente tutta inattesa. Questo film, questo docufilm è stato reso in maniera eccellente, ecco, mi ha affascinato tantissimo la capacità di questo regista e ho ritrovato tantissime affinità con quelle che sono altri registi polacchi, per cui questa sera cedo subito la parola ai nostri ospiti, in particolare appunto li ringrazio e Alessandro Romano è l'autore del libro oggetto di questa nostra iniziativa, per cui ci lasciamo accompagnare in questo viaggio, in questa scoperta da Alessandro Romano e ricordo ancora da Paola Totis. Grazie. Grazie. Allora, buonasera, io sono Paola Totis. Vengo da Noventa Vicentina, ma sono di origini friulane. Anch'io sono una scrittrice e mi occupo di giornalismo nel territorio appunto in cui vivo. Questa sera sono in dialogo con Alessandro Romano, che è l'autore appunto di questo libro che presenteremo questa sera, Andrzej Żuławski, il film di un cineasta scrittore. Due parole per presentare Alessandro Romano, anche lui è veneto e attualmente vive a Noventa Vicentina ed è uno scrittore ma anche un regista di teatro e di cinema. Si è laureato in scienze dello spettacolo all'Università degli Studi di Padova ed è diplomato all'Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto. Si è cimentato già in vari generi letterari, ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo Airone nella conchiglia nel 2006, il romanzo Rosso Cremisi nel 2009, ma anche il libro illustrato, un libro per bambini, La principessa Tecla nel 2014. Il suo primo cortometraggio, L'ancora di salvezza, è stato presentato fuori concorso alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. E anche il suo secondo cortometraggio, appunto, è stato presentato sempre nello spazio della Regione Veneto alla Mostra del Cinema di Venezia. Lui si occupa di organizzazioni, di eventi culturali, di formazione teatrale, abbiamo detto anche di proprio produzioni teatrali e di cinema con l'Associazione Culturale Amour Brac, che ha sede a Lozzo Atestino. Questo libro è stato pubblicato nel 2023, però in realtà ha un'origine molto più lontana. Ce ne vuoi parlare, Alessandro? Sì, il libro è stato scritto in realtà quasi 20 anni fa, perché era la mia tesi di laurea, quindi si parla del 2005-2006, e contiene appunto la tesi come il libro, anche un'intervista che mi fu rilasciata da Żuławski a Varsavia. E quindi in realtà è un libro antico, nel senso che ha già molti anni, e poi ovviamente tramite il mio editore Shatter Edizioni, che si occupa appunto proprio di cinema, l'abbiamo ampliato nel corso degli anni, appunto, con il materiale che mancava, perché all'epoca Żuławski si stava occupando soprattutto di letteratura, però avrebbe poi fatto un altro film 10 anni dopo, e quindi quel materiale lì non era presente nella tesi, e abbiamo pensato di utilizzarlo ovviamente per fare un libro più composito, più articolato. Bene, ci vuoi allora spiegare, per chi appunto non lo conosce, chi è Andrzej Żuławski? Allora, Andrzej Żuławski, questa è proprio la pronuncia polacca corretta, ho scelto questo epiteto di Don Chisciotte di Leopoli. Ovviamente Don Chisciotte lo conosciamo tutti, è appunto l'eroe errabondo per eccellenza, e Leopoli invece è una città che purtroppo è alle cronache negli ultimi anni, perché si trova attualmente in Ucraina, ma in realtà all'epoca e per molti secoli è stata una delle città polacche più importanti e più culturalmente vive. E lui nacque appunto a Leopoli nel 1940. E Don Chisciotte perché appunto tutta la sua vita è stata un po' segnata da una erranza continua, soprattutto tra la Francia e la Polonia, che sono i suoi due paesi, uno di nascita e l'altro d'adozione. Infatti si è diplomato in Francia, ha avuto una moglie francese, insomma, quindi la Francia è la sua seconda patria, ma in realtà è stata una vita errabonda per tanti motivi, perché diciamo che ha subito, uno dei pochi artisti credo in assoluto, a subire due esili dal proprio paese, uno nel 72 e l'altro qualche anno dopo, in concomitanza con due suoi film di cui poi parleremo. Quindi Don Chisciotte perché lui ha avuto proprio in tutta la sua vita questo continuo errare, appunto, come Don Chisciotte. Andrzej Żuławski però dai più è noto per essere stato il compagno di vita di Sophie Marceau. Esatto. Che è un'attrice, insomma, assai nota. Sì. Qual è stato il legame con lei? Allora, è un legame molto profondo, molto lungo, che è iniziato in realtà ben prima che si frequentassero. Entrambi dicono che si sono un po' scelti nell'81, quando Żuławski presentò a Cannes il suo film più famoso, che è Possession. All'epoca lei aveva 14-15 anni, era l'epoca del Tempo delle Mele, e lui era un uomo ben più maturo, insomma. Però già da allora pare che, insomma, si fossero scelti. Poi qualche anno dopo, quando dovette girare la Murbrach, che appunto prima abbiamo visto nel DVD, scelse lei. Avrebbe dovuto in realtà girarlo Isabella Jeannine il film, però le cose andarono diversamente, e lì sul set, insomma, scoccò la scintilla. Però insomma la differenza d'età era ragguardevole, perché insomma hanno 25-26 anni di differenza. Però sono stati assieme 17 anni, hanno avuto un figlio, Vincent, che è il terzogenito di Żuławski, poi altri due figli da altre due relazioni. Però insomma diciamo che Sophie Marceau è stata proprio la sua musa ispiratrice, perché hanno fatto assieme 4 film, e in realtà poi lei è presente come personaggio e come musa ispiratrice anche in molte sue opere letterarie, ma di questo magari parleremo dopo nella parte dedicata ai libri. E quindi è musa e compagna in tutto e per tutto. Prima hai nominato un'altra attrice, Isabella Jeannine, e anche con lei ha lavorato molto. questo regista polacco, e con lei invece che rapporto c'era? Allora, con Isabella Geny ha lavorato in realtà soltanto una volta per questo film che è entrato, insomma, poi negli annali, che è Possession, appunto il suo film più famoso, e che ricevette una mole incredibile di premi in tutto il mondo, non ultimo la Palma d'Oro a Cannes per l'interpretazione di Isabella Geny. E poi avrebbero dovuto girare assieme un altro film, che è appunto L'Amour Brac, ma in realtà poi qualcosa non funzionò a dovere produttivamente, e perché fra l'altro i due, adesso io non so effettivamente a livello di rapporto se fossero stati assieme, però sicuramente durante il set di Possession furono molto, come dire, affiatati. E soprattutto la Geny ricorda che alla fine della lavorazione del film dovette addirittura andare in terapia, perché tale era stata lo sconvolgimento di questo personaggio e di questa storia, che appunto dovette ricorrere, insomma, a un terapeuta, perché insomma il rapporto col regista, tra regista e attrice, era andato veramente al di là. Però insomma ci ha regalato un grande film e soprattutto una interpretazione, credo, magistrale di questa attrice magnifica. Sì, lui era molto esigente con le sue attrici e richiedeva anche una recitazione molto particolare. Non so se vuoi magari accennare qualcosa. Ecco, tutti i film di Żuławski hanno una caratteristica particolare, che è quella di far recitare, dicono gli americani, overacting, cioè sopra le righe, molto sopra le righe. Tant'è vero che in Francia i detrattori di Żuławski hanno coniato questo termine Żuławskien, che vuol dire appunto sopra le righe, molto sopra le righe, anche troppo istrionico. E la Geny effettivamente in questo film in particolare dette un'interpretazione veramente overacting, cioè tutto il film lei è costantemente posseduta, appunto possession, da qualcosa che poi noi ovviamente scopriremo vedendo il film. E per ottenere questo Żuławski l'ha, come dire, caricata al massimo, non solo lei in realtà ma anche tutti i suoi attori, è come se fossero presi da una febbre incontrollabile. Ecco, questa è una caratteristica peculiare di Żuławski che non ho riscontrato in quasi nessun altro regista, cioè tutti i suoi film hanno questa cosa e li riconosci subito dopo 5 minuti. Allora passiamo a un'altra grande attrice che tutti noi conosciamo, che è Romy Schneider. Ovviamente i più la conoscono per aver interpretato la principessa Sissi, ma ha lavorato anche con Żuławski in un ruolo ben diverso. Certo. Ci vuoi parlare del suo rapporto con il regista? Sì, Romy Schneider è un'attrice in realtà di grande eleganza, questo senz'altro, ma anche eleganza nella scelta dei registi, alcuni molto famosi, quasi tutti francesi, Claude Sauté, Claude Chabrol, Costa Gavras, anche in Italia, Dino Risi, insomma tutti grandi registi. Ha avuto la fortuna anche di incrociare Żuławski in questo film, anche questo è appunto nella Mediateca, che si chiama L'importante è amare, che è uno dei film in realtà più famosi diretti da Żuławski, che lui in realtà, poi lo diremo, non amava tantissimo, però gli dette appunto la possibilità di lavorare con un budget molto grosso per l'epoca, insomma per lui, e con attori che stimava molto, fra cui appunto Klaus Kinski, che ha una parte nel film, e Romy Schneider. Romy Schneider in questo film dà una delle sue migliori interpretazioni, perché fra l'altro interpreta un'attrice un po' che rispecchia quella che è stata la sua vita molto infelice, con matrimoni e legami molto strazianti, ecco. E il film parla appunto di questo, di questa appunto ultima diva che è un po' sul viale del tramonto. E il rapporto è stato bello, lo ricorda con grande affetto Żuławski e anche Romy Schneider, però fu molto difficile perché già all'epoca, voi sapete che gli ultimi anni di vita Romy Schneider insomma ebbe un importante lutto, nel senso che perse un figlio, ma in realtà già da anni soffriva di alcolismo, quindi già sul set dell'importante Amare fu molto difficile lavorare con lei perché era spesso, dice lui, appunto ubriaca e insomma la lavorazione doveva procrastinarsi sempre di più. Quindi sì, da questo punto di vista non fu facile con la lavorazione, ma sicuramente anche qui dette un'interpretazione magistrale, infatti vinse il César, che è appunto l'Oscar francese all'epoca. A questo film lavorò anche Fabio Testi, giusto? In questo film, appunto, poi ne parliamo meglio, lavorò anche Fabio Testi, il nostro attore, insomma, è stato uno dei pochi attori italiani a lavorare con Juhasky, ma appunto ne parleremo nello specifico tra poco. Ma qual è stato il film d'esordio del regista e in che epoca è ambientato? Allora, il primo lungometraggio di Juhasky è stato La terza parte della notte. La terza parte della notte è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi quando è nato Juhasky, ed è ambientato a Leopoli, appunto, la sua città natale, e parla fondamentalmente di suo padre, Miroslav, che era poeta e diplomatico, e di come sia sopravvissuto durante la guerra. Però non è un film convenzionale sulla resistenza, né sulla resistenza polacca, ce ne sono tantissimi nel cinema polacco di film sulla resistenza. Ma questo in realtà è un racconto fantastico. Perché? Perché in realtà narra di suo padre, fondamentalmente, anche se sotto mentite spoglie, ovviamente ha un altro nome, che perde la moglie e poi la moglie ricompare mentre lui si sta sopravvivendo durante l'invasione nazista, e quindi fondamentalmente è un racconto sul doppio, che è una cosa ritornante nel cinema di Juhasky, cioè la comparsa di qualcuno che è uguale a qualcun altro o uguale a se stessi. Quindi il doppio è appunto un artificio letterario che ha preso dal suo scrittore preferito, che è Dostoevskij. E la terza parte della notte parla appunto di questo, di questo racconto fantastico mescolato alla realtà delle cose, ovvero che suo padre, per sopravvivere, era costretto praticamente a produrre dei vaccini facendosi mettere sulla coscia, praticamente sul corpo, dei microbi, dei pidocchi, che producevano poi gli anticorpi contro il tifo. Praticamente così suo padre era sopravvissuto, e questa è una cosa reale mescolata però appunto al racconto fantastico. C'è sempre in Juhasky questa mescolanza tra la realtà molto cruda, molto dura alle volte, e il fantastico. Questa è una sua caratteristica peculiare. Allora passiamo al secondo film di Juhasky, Il diavolo. Il diavolo, che legame ha con la storia della Polonia? E questo è un altro film, appunto. I primi due film di Juhasky sono molto polacchi, ecco, bisogna dire la verità. Parlano dei due momenti più duri della storia polacca, appunto, la Seconda Guerra Mondiale, che tutti sappiamo, e un altro momento terribile in cui la Polonia non fu più una nazione, ed è sono le famose spartizioni della Polonia. La Polonia ha avuto tre spartizioni ad opera delle nazioni confinanti, cioè l'Austria, la Russia e la Prussia, che se la divisero nel corso di un trentennio tra il 1772 e il 1795. Nell'arco di questo ventennio, 25 anni circa, la Polonia è stata praticamente smembrata e divisa tra queste tre potenze. L'opera del diavolo è ambientata durante la seconda, quindi l'invasore in questo caso era la Prussia. Ma in realtà il film, che è stato girato nei primi anni 70, parlava velatamente delle sommosse che erano successe in Polonia nel 68, perché noi ricordiamo molto bene la primavera di Praga, ma in realtà le prime sommosse contro i regimi socialisti avvennero a Danzica. E in realtà questo film parla di questo. E fu per questo motivo che Juhasky fu esiliato una prima volta dal suo paese. Ovviamente poi la storia anche qui mescola la vicenda reale, appunto questo contorno storico ben definito, con qualcosa di assolutamente fantastico che è il diavolo. In questo caso il diavolo è un personaggio che segue il protagonista, Jacob, che torna a casa, uscito di prigione, e in realtà questa creatura malefica lo convince a uccidere tutti i suoi familiari, perché in realtà i suoi familiari uno alla volta lo hanno tradito, si sono, come dire, comportati in maniera cattiva nei suoi confronti e si sono dati chiaramente a una vita dissipata e dissoluta, in maniera anche, adesso non ve lo sto a raccontare nel dettaglio, però in maniera molto truculenta. E quindi il film parla di questa fascinazione del male, che ovviamente ha mille interpretazioni metaforiche, però è un film in realtà su questi moti del 68 a Danzica. Quando è arrivato invece il successo e con quale film? Allora, questi primi due film sono stati girati in Polonia, ovviamente con una struttura produttiva completamente diversa, che era quella della rimessa statale, cioè i film erano prodotti totalmente dallo Stato e controllati anche dallo Stato. Invece tra il 74 e il 75, dopo questo esilio, Żuławski va in Francia, trova questa produttrice Albina Dubois-Rouvray che gli produce questo film che si chiama L'importante è amare, che invece è un film completamente diverso dagli altri che aveva fatto finora. È un film sul cinema, su questa attrice Romy Schneider, sul Viale del Tramonto, pur avendo 30 anni o poco più, che vive appunto un matrimonio infelice, non consumato, con questo marito un po' pazzerello. Di lei si innamora Fabio Testi durante il set di un film che lei sta girando, in realtà un film dozzinale a cui è costretta a partecipare proprio per soldi. Però questa vicenda, che sembra molto appunto già vista, è molto interessante, perché Żuławski riesce a descrivere un ambiente del sottobosco del mondo dello spettacolo, che è in qualche modo vicino anche agli ambienti della criminalità e della pornografia clandestina. Insomma, è qualcosa di molto particolare, e in più comincia a utilizzare un sistema da questo film in poi, che è quello di raccontarci una storia raccontandoci un'altra vicenda che fa da specchio. Cioè all'interno del film c'è uno spettacolo teatrale che in questo caso è il Riccardo III di William Shakespeare, che in qualche modo specchia e riflette la vicenda triangolare di questi personaggi. Però poi, dopo appunto il primo esilio in Francia, lui ritorna in Polonia e gira un altro film che però lo porta a un secondo esilio. Per quale motivo? Allora, L'importante amare ebbe un grandissimo successo di pubblico, di critica. Appunto, Romy Schneider vinse il César. Żuławski fu corteggiato da tutti i produttori dell'epoca, ma fu richiamato proprio dagli stessi che lo avevano cacciato. Dite, com'è possibile? È possibile. Lo richiamarono il Ministero della Cultura e gli fecero, ti dettero carta bianca, dissero, ma adesso fai quello che vuoi. Non l'avessero mai fatto, perché lui fece un film ovviamente assolutamente ancor di più del precedente, Il Diavolo, politico. Però in realtà il film non era assolutamente di primo acchito un film politico, cioè non è tipo L'Uomo di Marmo di Vaida o altri film dell'epoca. No, è un film di fantascienza. Una fantascienza molto particolare, che in realtà parla di noi tutti e di noi tutti nell'eternità, perché è la storia di come si crea una religione. Religione o potere, che poi alla fine sono quasi la stessa cosa per Żuławski. È un film molto complesso da raccontare, però in sintesi è la storia di un gruppo di persone che arriva in realtà nella faccia nascosta della Luna, non in un altro pianeta, e lì ricrea praticamente l'umanità, cioè la crea dall'inizio dei tempi, quindi dalla preistoria fino al futuro. E questo film, peraltro, è stato praticamente bloccato, non è mai stato finito il film. È stato girato in gran parte tra il 76 e il 77, Ma a un certo punto proprio il Ministero della Cultura polacco decise di interrompere la lavorazione, di prendere tutto quello che era stato fabbricato, scenografie, costumi e quant'altro, e di bruciarlo, oltre che di bruciare i negativi del film, che per qualche arcano motivo si salvò. Ovviamente lui fu esiliato nuovamente, e non poté proprio più tornare in Polonia fino alla fine degli anni Ottanta, quando sapete poi cadde il muro. E quindi insomma questa vicenda particolarissima si concluse nell'87, tra l'87 e l'88, ormai si era in tempi di Lech Wałęsa, Lech Wałęsa come presidente, non come leader di Solidarność, e il ministro della cultura dell'epoca, che era un altro ovviamente, disse dopo 10 anni a Żuławski se intendesse, perché sarà salvato in qualche modo il negativo, se intendesse rimettere mano a questo materiale, ma era praticamente impossibile dopo 10 anni. E quindi montò quello che era possibile montare, ma mancavano proprio delle parti che era impossibile rigirare. E furono completate da una sua voice over, una voce narrante, e da lui che compariva in prima persona raccontando quello che non si era potuto girare. E quindi questo è ciò che è rimasto di Sul Globo d'Argento, così si chiama il film, che abbiamo avuto la fortuna di vedere a Torino il 9 marzo al Cinema Massimo, grazie al Museo Nazionale del Cinema, e perché effettivamente è quasi un evento vederlo proiettato in pubblico, ecco, perché in realtà fu proiettato a Cannes all'epoca, ma insomma, poi ha avuto pochissime altre forme distributive. Però anche questo secondo esilio in un certo senso portò anche a un secondo grande successo per il regista polacco, con il suo perché riuscì appunto a realizzare quello che forse è il suo film più famoso, che è Possession. Esatto, diciamo che grandi dannazioni e grandi fortune. Dalla Polonia, dovete immaginare appunto com'era ridotto questa persona, nel senso non poteva rimanere in Polonia dove c'era sua moglie e suo figlio. Non, in Francia sì, poteva tornare, ma non aveva quasi più contatti. Decise di andare negli Stati Uniti, ecco, il nuovo mondo di solito porta fortuna ai disgraziati. E, andò a New York. E in 10 giorni dice di aver scritto questo film che si chiama appunto Possession. Senza in realtà svelare troppo, è la storia incredibile di una donna che partorisce letteralmente una creatura, un mostro. E questa appunto è, lui andò dai produttori a raccontare sta roba, dice, è la storia di questa donna che partorisce un mostro. Ovviamente ci faticò moltissimo a trovare dei produttori, andò anche la Paramount, tutti i grandi colossi dell'epoca, e incredibilmente riuscì a girare il film con un cast e anche una certa produzione importante per l'epoca, fra cui anche il nostro grande Carlo Rambaldi, che tutti conosciamo come il papà di E.T., che costruì appunto il mostro. E il film ha avuto un grandissimo successo, però anche in questo caso ha avuto una grandissima dannazione, perché in quasi tutte le nazioni in cui fu distribuito fu tagliato, perché ovviamente insomma è un film abbastanza sconvolgente. Eppure ha avuto una grande fortuna, fu un grande successo economico e fu un grande successo anche di critica, soprattutto per l'interpretazione di Isabella Janin, che qui vedete assieme a Sam Neill, attore australiano neozelandese che tutti forse conosciamo per Jurassic Park, ma è un grandissimo attore tout court. E da lì insomma rinasce, per questo ho usato la parola resurrezione, la stella di Żuławski. Ma questo film dove è stato girato? Perché anche il luogo dove è stato girato è significativo. Esatto. Il significato stesso film. Sì, appunto, poi il film va ovviamente visto perché raccontato così è. Il film è ambientato a Berlino nel 1980-81 e all'epoca c'era ancora il muro. Quindi tutto questo ha una valenza profondamente metaforica e simbolica come tutti i suoi film. È un film sulla separazione, perché in realtà anche qui Juhasz racconta di se stesso. Lui ha avuto un divorzio molto difficile con la moglie, che era l'attrice dei suoi primi due film, un'attrice polacca che si chiama Małgorzata Braunek, e tanto difficile che i due finirono quasi per ammazzarsi l'un con l'altro, proprio fu un divorzio tremendo che coinvolse anche in parte il loro figlio, insomma, quindi tutto quello che si vede nel film, dice Juhasz, tranne il mostro, io l'ho vissuto. E quindi è un film molto personale, pur essendo in realtà una storia fantastica. Ecco, io non ho mai conosciuto nessun altro regista che raccontasse se stesso così bene con delle storie in realtà fantastiche. Perché poi in realtà l'orrore palpabile non è un orrore di un altro mondo, è proprio di questo mondo. Sì, diciamo che questo film generalmente viene sempre, come dire, etichettato come film horror, ma in realtà c'è molto di più in questo film. È un film che parla appunto di separazione, dell'origine del male, quindi i film di Juhasz, certo, magari traggono spunto da quelle che sono vicende personali, biografiche o storiche, ma vanno sempre più a fondo nelle tematiche che affrontano. Sì, in realtà sono poi dei tranche de vie proprio suoi, personali, che, in cui quindi ognuno di noi può riconoscersi, anche se in realtà il racconto ha una valenza fantastica, una natura visionaria. Bene, poi diciamo che nei film successivi la figura femminile comincia ad essere sempre più protagonista delle sue storie, a cominciare da quale film in particolare? Dunque, tutti i suoi film, anche i primi, hanno sempre dei grandissimi personaggi femminili, cioè anche quando non è la protagonista principale, la figura femminile, di solito una in particolare, è fondamentale, cioè da lì parte in qualche modo tutta la storia. È nella terza parte della notte, nell'importante amare, anche in Possession, anche se in realtà poi la visuale è quella maschile. E invece da la femme publique in poi cambia, mette proprio al centro la donna, e in particolare in questo film, che è anche il mio preferito di Juhasz, in questo film la donna è proprio protagonista e motore scatenante. È la storia di una ragazza, Ethel, che per il suo grande sogno è diventare attrice, sfondare nel cinema, ma in realtà per vivere, siccome insomma la vicenda familiare è alquanto incasinata, come in tutti i film di Juhasz, per vivere, appunto, per sopravvivere, si spoglia, praticamente fa delle foto di nudo. Però in qualche modo viene notata da un regista che la scrittura per una trasposizione dei Demoni di Dostoevskij, che è uno dei romanzi più complessi dello scrittore russo, perché parla di terrorismo e di come si cambia il mondo attraverso la violenza. Queste sono proprio le parole del regista nel film. La vicenda è molto, è alquanto intrigata, ingarbugliata, però in qualche modo al centro c'è sempre questa figura femminile che in qualche modo porta non tanto la serenità negli spettatori, però è capace di sopravvivere agli eventi, ecco, molto più del maschio. Secondo Juhasz, la donna comunque sopravvive sempre di più, è più adattabile al mondo. Invece qual è il suo film più sperimentale e perché lo possiamo definire tale? Allora, fra l'altro è uno dei due film nella mediateca, L'Amour Brac. L'Amour Brac, che fra l'altro ho utilizzato come nome dell'associazione che abbiamo, è un film, anch'esso un omaggio proprio plateale a Dostoevskij, perché è una trasposizione di un altro romanzo, non I Demoni, ma L'Idiota. L'Idiota è la storia, fondamentalmente la storia di Cristo. di Cristo come l'innocente in una società che non lo è. Questa è fondamentalmente, secondo Juhasky, la vicenda dell'idiota. E in questo film, è il primo film girato con Sophie Marceau, lui ha tentato qualcosa di molto particolare, nel senso che molto più degli altri suoi film è caricaturale, è parodistico, è esagerato in tutto. Tutto è velocissimo, tutto si muove su delle linee oblique, mentre in genere i suoi film sono sì in movimento, ma sono più circolari. Mentre qui l'idea era di fare tutte riprese in obliqua, quindi immaginate che tipo di azione salti fuori, azione anche scenica. In più, soprattutto in francese si nota, gli attori quasi cantano, quindi è una specie quasi di musical, però mescolato col gangster movie, mescolato con Dostoevsky, e tutto questo in un tourbillon di emozioni, per cui dopo un'ora e mezza uno esce ed è non sa più dove si trova. Quindi per questo dico che è il suo film più sperimentale, però in realtà se uno lo guarda bene ci sono tutte le tematiche e le idee degli altri suoi film, solo che mescolati in un modo del tutto originale. Sì, i suoi film sono sempre, appunto, come dicevo prima, vanno sempre molto in profondità e spesso sono anche dei film, anche diciamo, con delle immagini molto forti, con delle vicende anche molto intricate, complicate, ma c'è un film in particolare che è un po' più leggero. Leggero, divertente, insomma, sì. Ci sono anche dei siparietti comici, ecco, perché comunque questo regista non è privo di ironia, anzi. Anche in Possession, insomma, forse un po' anche per stemperare, ecco, questo clima di tensione, inserisce anche dei siparietti molto comici. Quindi qual è il film, diciamo, più divertente, un po' più leggero, ecco, da poter guardare? Sì, ne parlavamo qualche giorno fa, in realtà nessuno dei suoi film è una commedia, ecco, da questo punto di vista, però questo, Le mie notti sono più belle dei vostri giorni, ha qualcosa di lunare, cioè il protagonista è talmente anche qui sopra le righe, ma in senso ridanciano, che uno non può, di fronte alle sciocchezze che combina, non ridere o non sorridere, anche se in realtà la storia è tragica, perché lui, Jacques Dutronc, che è forse più famoso come cantante, qui interpreta un ingegnere informatico, praticamente un genio dei computer, che inventa un nuovo linguaggio per i computer. Solo che nel momento stesso in cui lo inventa scopre di avere un tumore al cervello e piano piano perde l'uso delle parole. Quindi paradossalmente quando inventa un linguaggio ne perde un altro. E negli ultimi giorni di vita praticamente incontra Sophie Marceau, che è una indovina, fa un numero da indovina, ovviamente fasullo, che però in realtà si rivela essere vero. Cioè lei veramente sa prevedere il futuro. E questi stranissimi personaggi si incontrano, si amano, e poi alla fine chissà cosa succede, soffrono in questo albergo di Biarritz, dove è ambientato in gran parte il film. E il film è pieno di, appunto, dei siparietti stranissimi, delle visioni particolari dell'uno e dell'altro personaggio, inframmezzate dalle loro vite, che in realtà sono molto tragiche, molto luttuose. Entrambi i personaggi hanno avuto delle infanzie difficili, insomma, segnate dalla violenza, dalla morte. E Juhasky ha questa capacità però di raccontare queste storie apparentemente orribili con una certa leggerezza, con una capacità comunque di stemperare il tutto, almeno in questo film più che in altri. E il regista aveva però anche un'attenzione particolare per la musica. E lo vediamo anche da questo film che si chiama Boris Godunov, che in realtà però è un'opera lirica. Sì, Boris Godunov è uno zar vissuto alla fine del Cinquecento, nella cosiddetta epoca dei torbidi. prima della storia della Russia è molto complessa, però a un certo punto, prima dell'avvento dei cosiddetti Romanov, gli zar, appunto quelli della rivoluzione russa, c'erano questi torbidi, questi boiardi, sono i nobili russi, che si spartivano il potere. Uno di questi, che prese il potere in maniera molto sanguinaria, si chiamava appunto Boris Godunov. È legato molto in realtà anche alla storia polacca, perché ad un certo punto, quando perse il potere, lo perse perché diciamo una fazione si alleò con la Polonia che invase la Russia. Ecco, in maniera molto strana la storia si è invertita anche in epoche a noi lontane. E, Boris Godunov però è anche un'opera lirica di Modest Mussorgsky, ma è anche un'opera teatrale di Alexander Pushkin, quindi è un personaggio molto molto famoso nell'Est Europa. E in questo caso Żuławski ereditò questo progetto dal suo mentore Andrzej Wajda, appunto probabilmente il più famoso regista polacco, appunto prima citavo L'Uomo di Marmo. Wajda però non poteva in quel periodo fare il film e lo passò di mano appunto a Żuławski. E Boris Godunov è un'opera lirica in tutto e per tutto, cioè non è un film che lui non filma la messa in scena dell'opera, lui gira proprio il film come fosse un'opera lirica, quindi è una cosa molto molto particolare, come capite, perché la partitura che in realtà gli attori cantano è stata cantata in un altro momento dai veri cantanti e lui la sovrappone all'azione scenica fatta con gli attori, quindi tecnicamente è molto complessa questa cosa. E in più il film poi mescola anche qui in maniera del tutto peculiare la realtà di Mussorgsky, quindi quando viene messa in scena l'opera, la realtà di Boris Godunov, quindi alla fine del Cinquecento, e anche l'epoca moderna, perché a un certo punto si vedono anche dei soldati dell'Armata Rossa, e quindi non poteva anacronisticamente essere, e mescola tutte queste cose assieme, però con grande maestria, devo dire. La musica è al centro proprio della vicenda. Sì, come dicevo prima, lui aveva una grande attenzione per la musica e spesso richiedeva anche che per i suoi film venissero create delle musiche anche abbastanza sperimentali, come anche in Possession. Però c'è, ecco, un altro grande film che dedica a un grandissimo musicista che è Chopin, ossia La Nota Blu. Esatto, e anche qui c'è qualcosa di molto particolare, peculiare. Di solito la musica che noi sentiamo nei film, soprattutto al piano, non viene suonata dal vivo. L'attore viene inquadrato mentre suona, di solito di spalle, e poi in realtà le dita che vediamo sono di un pianista. In questo caso no. In questo caso veramente l'attore che interpreta Chopin è un vero pianista polacco, Janusz Olejniczak, che è uno dei più importanti interpreti di Chopin al mondo. E lui gli chiese se appunto volesse interpretare Chopin. Ha detto: ma io non sono un attore, non ti preoccupare. E invece fecero il film, non è un film biografico in senso stretto, come sempre. Parla dell'ultimo giorno della relazione tra Chopin e George Sand, la scrittrice francese, adesso un po' meno nota, ma all'epoca molto importante, e la figlia di George, avuta da un altro matrimonio, Solange, interpretata appunto da Sophie Marceau. Ed è questo triangolo, molto frequente in Żuławski, il triangolo tra questi personaggi nell'ultimo giorno della relazione appunto tra Chopin e Sand. E anche qui mescola la realtà e la fantasia, perché a un certo punto noi vediamo dei personaggi assolutamente fantastici, quasi delle divinità, che popolano il giardino della casa di George. E La Nota Blu si riferisce all'ultima nota, la nota quasi inudibile che il pianista fa praticamente in punto di morte. Quindi è un film sulla morte, ma anche sull'amore, che sono proprio i due poli di tutta la cinematografia di Żuławski. ed è anche un film sulla Polonia e sulla Francia, che sono i suoi due paesi, proprio come Chopin. Il tema dell'eros, infatti, è sempre molto presente nei film di Żuławski, e in uno in particolare, che è La sciamana. Ma in che modo dobbiamo guardare a questo eros messo appunto in scena dagli attori? È un eros che va al di là, insomma, cioè, come al solito è sempre un qualcosa che vuole parlarci di altro. Sì, sì, tutti i film di Żuławski contengono le cosiddette scene erotiche, le scene di nudo, spesso integrali, cioè questa è proprio una caratteristica sua. È sempre molto complicato girare queste scene, però lui aveva una grande naturalezza nel farlo, una grande eleganza. In alcuni film in particolare l'eros è proprio papale, insomma, senza giri di parole, però sempre ha una valenza, appunto, che va al di là della meccanicità del gesto. Soprattutto nella sciamana, eros e thanatos, quindi l'amore e la morte, sono quasi la stessa cosa. È una storia torbida di questa relazione tra una ragazza e un uomo più grande, che si svolge a Varsavia. È stato girato appunto anni dopo rispetto ai film di cui ho parlato. Siamo già negli anni 90, quindi Żuławski era tornato in Polonia, perché a un certo punto dalla Francia, in cui era rimasto 15 anni, torna in Polonia, facendo sempre su e giù anche con Sophie Marceau. E questo film fu un grande successo in patria, ma fu anche in questo caso bannato, fu in qualche modo sempre ostracizzato anche dalla Chiesa Cattolica dell'epoca, che addirittura diceva alle persone: non andate a vedere il film, assolutamente proibito. E invece fu un grande successo di pubblico, perché in realtà La sciamana è un film sulla fede. Come tutti i film di Żuławski, parla di Dio, o di quello che volete che sia Dio, cioè del perché siamo al mondo, del senso della vita. La storia nel particolare vede il personaggio maschile, che è un antropologo, che scopre il cadavere di uno sciamano, da cui il titolo. Ma in realtà, mentre lo scopre, si innamora di questa, appunto, ragazza, ha questa relazione puramente quasi sessuale, e lei piano piano lo divora, quasi letteralmente. E quindi Eros e Thanatos si toccano, sono quasi la stessa cosa. E questi loro appuntamenti sessuali sono in realtà delle cerimonie religiose, ecco. Difficile spiegarlo, bisogna proprio vederli i film di Żuławski, però in realtà è un film di grande profondità. Invece abbiamo detto che sì, in molti dei suoi film lui mette anche delle vicende, diciamo, personali, ma ce n'è uno in particolare che è autobiografico, e qual è? Allora, un po' tutti i suoi film lo sono, ecco. Possession, lui dice sempre che è la storia sua, appunto, del suo matrimonio. La terza parte della notte è la storia di suo padre, e La fidelité è fondamentalmente il film della sua relazione con Sophie Marceau, in una maniera anche qui paradossale, perché nella realtà molto probabilmente lei lo aveva tradito. Scrisse anche proprio dei libri su questa, appunto, relazione con lei. D'altronde la differenza d'età era notevole, e il film parla appunto di questo, della storia appunto di una donna più giovane che si innamora di un uomo più grande, si sposano, ma lei si innamora di uno più giovane. Entrambi sono fotografi, la moglie e questo ragazzo più giovane, ma in realtà non consumano mai questo amore, non si tradiscono mai, però questa scintilla fa distruggere il matrimonio, appunto la fidelità, il paradosso della fedeltà, fino a dove arriva. Pur essendo un film autobiografico, in realtà è una trasposizione letteraria. Quasi tutti i film di Żuławski sono trasposizioni di altre cose. di un romanzo magari poco noto, però un grande classico della letteratura francese, che è La principessa di Clèves di Madame de Lafayette, che è un romanzo del 600, che parla appunto di questa storia. La storia è uguale, cioè questo innamoramento, questa infatuazione di una donna sposata per un uomo più giovane, ma in realtà questa storia non viene mai vissuta carnalmente, ma questo distrugge il matrimonio. Questa è la vicenda in sintesi. L'originalità del film di Jouaski è il fatto di essere ambientato nel mondo della moda, della fotografia scandalistica, quindi dei giornali scandalistici tipo Novella 2000 in Francia, e quindi questo mondo di corruzione, di artificio, di tutto ostentato, viene invece vissuto dai tre personaggi come una grande tragedia. Ecco, in un mondo così dove tutto è fatuo, ha senso ancora parlare di grandi valori, amore, fedeltà? Ecco, su questo si interroga il film, che in realtà parla poi della sua vita. Come chiude la carriera di regista? Allora, a un certo punto Jouaski, per sua stessa missione, si era un po' stancato di fare film, anche perché non gli davano i soldi. Questa è proprio la verità. Dice: io sì, dopo possiamo fare un film anche adesso, ma dove sono i soldi? Ecco, questa era una battuta frequente degli ultimi anni. Però a un certo punto lo stesso produttore della Fidelité, che è questo produttore portoghese, Paolo Branco, che ha prodotto film d'autore assolutamente altrimenti invisibili, gli dette i soldi per fare Cosmos. Allora, Cosmos è un'altra trasposizione letteraria di un classico della letteratura polacca del Novecento, di Witold Gombrowicz, autore di, anche qui, romanzi veramente surreali, particolarissimi. In questo caso la vicenda è una specie di detective story che coinvolge un giovane scrittore in erba, che si chiama peraltro proprio come l'autore, cioè Witold, che durante una vacanza comincia a vedere degli stranissimi indizi, tra cui appunto, lo vediamo nel fotogramma, un uccello impiccato, e da lì costruisce assieme al suo amico tutta una vicenda che ha appunto del surreale, cioè cosa vorranno dire tutti questi segni? Probabilmente niente, o probabilmente qualcosa. E all'interno di questa detective story lui poi si innamora, c'è sempre la storia d'amore e l'amore nei film di Jouaski, di questa donna, di questa ragazza sposata, che poi alla fine insomma diventerà la sua donna, però in maniera del tutto casuale. Quindi in realtà è un film sul caso, è proprio un film terminale di Jouaski, che aveva un po' perso la speranza nelle cose del mondo. E però è un film beffardo anche, cioè tutto può essere, tutto non può essere. Però Jouaski, abbiamo detto che non è solo un regista, ma anche uno scrittore. E tu nel tuo libro appunto hai approfondito anche quello che lui ha scritto, e ha scritto anche parecchio. Sì. Sì, lui ha scritto veramente tantissimo. Sono oltre 30 i libri che ha pubblicato, alcuni sono ancora inediti. Uno appunto inedito pare che sia lungo più di 1000 pagine, ed è ambientato durante la Comune di Parigi. Non si sa, magari prima o dopo qualcuno lo tirerà fuori dal cassetto. La maggior parte dei suoi libri si rifanno a questo autore che ho citato prima, che è Witold Gombrowicz. Però potrei citare un altro autore che è Céline, o un altro autore come Henry Miller. Perché? Perché tutti questi autori in realtà hanno scritto dei romanzi in cui loro sono protagonisti, ma le vicende che raccontano sono fittizie, sono degli autoromanzi, si chiamano in gergo, cioè sono dei libri in cui, benché come se io scrivessi un libro in cui c'è il protagonista che si chiama Alessandro Romano, però in realtà fa delle cose che io non ho mai fatto. In questo caso Jouaski gioca, sono dei grandi divertissement quasi questi libri, però con grande appunto sagacia e grande erudizione. Sapeva tre lingue, questo uomo, quattro forse. E E in realtà c'è sempre poi la tragedia dentro. Negli occhi della tigre, che ho avuto la follia di tradurre anni fa, non sapendo il polacco, quindi insomma l'ho tradotto come potevo per capirlo il più possibile, racconta 20 anni di carriera, per questo l'ho scelto per parlarne stasera, 20 anni di carriera di Żuławski, più o meno dalla terza parte della notte fino a Boris Godunov, e in una maniera a parte incredibile, cioè passa da un momento all'altro storico, quindi da Lech Wałęsa a Haiti, da, che ne so, Mitterrand alla Seconda Guerra Mondiale, quindi è appunto un caleidoscopio di circostanze che sono viste però dal suo punto di vista con personaggi che effettivamente ha conosciuto sul serio e che a volte sono alter eghi, cioè hanno alter ego, scusate, quindi hanno un altro nome, ma sappiamo che sono, che ne so, Isabella Gianni, e in altri casi con nome vero, ad esempio Roman Polanski. Quindi sì, c'è questo pastiche letterario di indiscutibile fascino, e bisogna avere, ecco, la volontà di aver voglia di leggerlo proprio. E un altro libro che ho scelto si chiama Selva fitta. E questo è importante perché è proprio un documento in parte anche storico. E qui si parla sia di Roman Polanski che di Andrzej Wajda, che è appunto il suo mentore. Dovete sapere che in Polonia tra gli anni 50 e gli anni 60 c'è stato un grande momento culturale, soprattutto nel cinema e soprattutto di autori come Andrzej Wajda, il più famoso, poi altri meno noti tipo Jerzy Kawalerowicz, Wojciech Jerzy Has, sono tutti autori che hanno dato un grande contributo alla Polonia in termini di film. Ecco, questi autori, e in genere Wajda soprattutto, avevano una grande fortuna, cioè la Polonia era un regime, quindi non è che le cose si potessero fare come si voleva, tutto doveva passare dalle mani dello Stato. Però alcuni, come ad esempio Wajda, avevano creato, come dire, una specie di protettorato, di principato di Varsavia, come lo chiama Żuławski nel libro, in cui erano un po' un'elite, cioè potevano permettersi di fare bene o male quello che volevano. Il libro in realtà poi è un thriller, perché Żuławski si immagina di avere un fratello, che in realtà ne aveva due, però di avere un fratello che uccide un uomo. E in realtà parla poi di questo il libro. E all'interno ci sono appunto Wajda, Polanski e tutto il cucuzzaro, diciamo, di questa elite di cineasti, che in qualche modo sono colpevoli o consapevoli di questo omicidio. Quindi in realtà anche qui è una metafora poi molto stringente di un certo momento storico della Polonia. E in che rapporto era appunto Żuławski con i registi polacchi? Ecco, qui ho scelto proprio questa foto fatidica in cui ci sono non tutti, ma molti registi polacchi importanti della storia del cinema. Appunto abbiamo Żuławski, qui tutto a sinistra, Andrzej Wajda, poi Agnieszka Holland, che è ancora in attività, ha fatto un film anche l'anno scorso che era a Venezia, il più famoso penso Roman Polanski, Richard Bugajski, poco noto perché ha fatto solo un film importante che si chiama L'interrogatorio, che parla però appunto delle condizioni delle carceri in Polonia, e poi Krzysztof Kieślowski, che è l'ultimo, quello con gli occhiali in fondo. Ecco, qui questa foto è stata scattata al Festival di Cannes nel 1990, quando Lech Wałęsa è diventato presidente della Polonia. Allora, il rapporto è stato sempre un po' conflittuale, ma perché Żuławski ha sempre avuto un rapporto conflittuale con tutti, con le sue mogli, probabilmente anche con i suoi figli, con i produttori. Forse gli unici con cui ha litigato poco sono i suoi attori, perché lui diceva sempre che puoi litigare con tutti tranne che con i tuoi attori, perché sennò il film non funziona. Poi con qualcuno ci ha litigato, ahimè, ma ha detto in realtà me ne pento. E quindi con i suoi colleghi, soprattutto polacchi, c'è sempre stata una grande, da una parte, fascinazione, soprattutto per Wajda e per Polanski, come avete capito, che ritornano all'interno dei suoi romanzi, quindi in qualche modo sono importanti per lui. Ma dall'altra parte, avendo lui dovuto sempre faticare molto di più di loro per riuscire a fare i suoi film, c'è sempre stato un po' un amore-odio, ecco, tra di loro. Ma in realtà, personalmente, io credo che siano i registi più vicini a lui come stile, come tematica, come rapporto anche con poi l'istituzione e il regime polacco. Bene, se non ci sono interventi, domande, curiosità da parte del pubblico, noi salutiamo e ringraziamo la Biblioteca Claudia Augusta di Bolzano che ci ha ospitato e il Centro Culturale Trevi. Grazie a voi, è stata una serata davvero interessante, è stato piacevole e veramente curioso anche ascoltarvi e conoscere questo regista, questo scrittore. E nel frattempo, lei l'ha citato più volte, mi è venuto in mente che era appunto Wajda. Sì, il film si intitola L'uomo della speranza. Sì, è appunto quel film dedicato, sì, a Lech Wałęsa. Sì. L'anno scorso l'abbiamo proiettato qui, quindi quest'anno, insomma, ogni anno un omaggio al cinema polacco ci teniamo a farlo per vari motivi, ci sono varie concomitanze. A breve, in questi giorni, festeggeremo di nuovo anche il Film Festival di Bolzano, il Filmtage con il Film Club, e soprattutto voglio ricordare anche chi ci sta ascoltando che presso il Centro Trevi c'è anche un centro audiovisivi che forse avete anche citato precedentemente, dove si possono prendere questi film d'autore e quindi vedere e apprezzare quanto ci è stato spiegato questa sera da Alessandro Romano e da Paola Totis. Con questo grazie e a presto. Grazie a voi.